5i. Ascolta e rispondi. Quanti amici avete? Ne abbiamo molti. Quanti quotidiani leggete? Ne leggiamo molti. Quanti posti prenotate per stasera? Ne prenotiamo molti. Quante amiche avete? Ne abbiamo molte. Quante parole italiane ricordate? Ne ricordiamo molte. Quante studentesse conoscete qui? Ne conosciamo molte.